I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Oggi parliamo nuovamente di mercato del lavoro, di occupazione. Ieri sono arrivati i dati dell'INPS sulle attivazioni e le cessazioni di contratti di lavoro fino ad agosto. Diciamo che ormai orientarsi tra queste statistiche è diventato difficilissimo e non sempre riusciamo a capire se l'occupazione stia realmente migliorando come in effetti sostiene il governo. I numeri: tra gennaio e agosto abbiamo avuto 90.000 contratti di lavoro stabili in più rispetto al 2014. Si tratta del saldo netto, ovvero la differenza tra i nuovi contratti aperti nel corso dell'anno e quelli cessati negli stessi mesi. I contratti stabili però crescono molto di più, perché a questi 90.000 vanno aggiunte anche 330.000 trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili. Che cosa succede qui è facile da spiegare. Il mix tra gli incentivi sulla decontribuzione e il nuovo contratto a tutele crescenti induce molti datori di lavoro a passare dal contratto a termine al contratto stabile, che ora appunto è più conveniente. Nei primi 8 mesi dell'anno 790.000 contratti hanno avuto l'esonero dei contributi. Qui però c'è da dire una cosa: come sappiamo, la legge di stabilità prevede che questo bonus sarà riproposto, ma in misura più contenuta rispetto agli 8.000 euro attuali, e questo probabilmente è un rischio, perché si potrebbe interrompere quel trend positivo di trasformazione dei contratti a termine al quale abbiamo assistito in questi ultimi mesi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Caso Germania e rallentamento dei paesi emergenti rischiano di gettare non poche ombre sulla ripartenza italiana. Un ennesimo paradosso: mentre da noi le cose migliorano, rischiano di peggiorare di molto nel resto del mondo. Brutta doccia fredda, ad esempio, per la Germania, che paga lo scandalo Volkswagen. Oggi l'indice ZEV, che misura la fiducia degli investitori rispetto appunto alla Germania, è sceso a 1,9 a ottobre, mentre solo un mese fa era a quota 12,1, è il punto più basso da un anno. Anche l'indice di valutazione della situazione attuale in Germania è sceso di molto, da 67,5 a 55,2, riportandosi sui livelli del marzo scorso. Pesa anche il rallentamento dell'economia dei paesi emergenti, che finora hanno trainato la crescita e il commercio mondiale. È di stamattina la rilevazione sulla bilancia commerciale cinese, da cui è emerso un crollo del 17,7% delle importazioni a settembre, che se calcolate in dollari diventa ancora più grave, al 20,4%. Un segnale che conferma la debolezza della domanda della Repubblica Popolare, visto che le importazioni sono in calo da 11 mesi consecutivi ormai, e a farne le spese per primi sulle borse mondiali sono i titoli del lusso, che nel sud-est asiatico hanno visto finora una delle principali fonti di fatturato. Per tornare alla Germania, dal fronte Volkswagen continuano ad arrivare notizie pesanti. La casa automobilistica ha annunciato che taglierà gli investimenti di 1 miliardo e accelererà invece il programma di ricerca sull'auto elettrica. I manager Volkswagen hanno spiegato di avere provveduto ad accantonare 6,5 miliardi per affrontare i costi dello scandalo. Certo, non può che essere una prima tranche, perché fonti diverse accreditano un costo complessivo del Dieselgate da 40 a 80 miliardi di euro, 18 dei quali come minimo solo negli Stati Uniti. A Wolfsburg sono terrorizzati di finire come nella Detroit dismessa degli anni 90, e intanto gli americani si aggiudicano i diritti per il film sul disastro tedesco. Protagonista Leonardo DiCaprio, per lui, ambientalista radicale, sarà una specie di vendetta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.